Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la vostra cortese attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia, grazie anche all'ascoltatore Stefano e agli altri che ci hanno fatto sentire la loro presenza con documentazioni e suggerimenti. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.